A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. La Lombardia, Milano può diventare esattamente quello che è Reggio Calabria sotto questo punto di vista. Milano come Reggio Calabria. Se è vero che fuori dalla casa madre la 'ndrangheta riproduce in tutto la sua struttura, dopo l'inchiesta che ha portato all'arresto anche di una toga, il paragone dei magistrati sia lombardi che calabresi è un monito tanto allarmante quanto preciso. E da qui partiamo per questa puntata di A ciascuno il suo. Partiamo dalla stanza del procuratore capo di Milano, Edomondo Bruti Liberati, davanti a finestre grandi da cui si intravedono le guglie del Duomo e su cui si allungano le mani delle cosche. Un giudice che manda un fax con notizie sulle inchieste in corso, un altro che si vende in cambio di rilassanti serate milanesi con prostitute, un maresciallo della Guardia di Finanza al libro paga dei boss, politici da ungere per scalare i monopoli di Stato. È drammaticamente elevato, scrive il GIP Giuseppe Gennari, che ha firmato l'ordinanza per 10 persone, il numero di uomini pubblici con cui il clan Valle Lampada coltiva proficui rapporti. È la zona grigia al servizio delle cosche, sono professionisti come medici e avvocati, ma soprattutto magistrati come Vincenzo Giglio, già presidente dell'ufficio di prevenzione di Reggio Calabria, che rivela notizie sulle indagini intorno alle cosche, in cambio del sostegno politico alla nomina di sua moglie a commissario straordinario dell'ASL di Vibo Valentia. Abbiamo provato a cercarla, Alessandra Sarlo, tornata ora al suo incarico in provincia, ma invano. Il marito è stato portato nel carcere milanese di Opera, invece, lui che fino a poco fa in pubblico prendeva le distanze da certi personaggi, in privato li sentiva anche per gli auguri di compleanno. Lui che davanti alla pubblica opinione sottoscriveva attestati di solidarietà verso i colleghi minacciati dai boss, perché fa fico, come dice in un'intercettazione, e nel privato della sua casa riceveva visite da rappresentanti di famiglie mafiose, a cui faceva arrivare notizie riservate attraverso un politico. E nella ragnatela mafiosa le notizie sono merce preziosa. Di talpe probabilmente ce n'è stata più di una, ci sono lavori in corso, ma non solo a Catanzaro, ecco, anche sul nostro territorio. Stiamo lavorando in tal senso. Talpe dunque, forse anche negli uffici milanesi, oltre che a Catanzaro, oltre che a Reggio Calabria, dove è stato arrestato un giudice, oltre che a Palmi, dove un altro è stato indagato. Dunque anche il palazzaccio di Milano potrebbe aver partecipato a far arrivare soffiate ai clan, forse coinvolto da uffici calabresi? Gli interrogativi sono numerosi, come le domande a cui le inchieste ancora aperte, sia a Milano che a Reggio, cercheranno di dare risposte. Ad esempio, non casuale, secondo gli inquirenti, è la contemporaneità tra la fuga di notizie contestata al magistrato arrestato e le rivelazioni che a Reggio hanno portato già in carcere un ex informatore dell'intelligence, Giovanni Zumbo. Lo dice esplicitamente un PM milanese, Paolo Storari. Negli stessi periodi in cui si verifica, diciamo così, una fuga di notizie in questa indagine, presenza Reggio Calabria della famiglia Valle Lampada, o meglio di alcuni suoi esponenti, negli stessi giorni o periodo Zumbo rivela notizie determinanti per alcuni esponenti. Il periodo temporale è lo stesso e non è probabilmente questo frutto di una coincidenza. La visione parcellizzata indubbiamente non consente di capire quelle che sono le relazioni non solo tra le singole famiglie, ma anche col mondo professionale, imprenditoriale, con quello che è stato chiamato appunto il capitale sociale, una risorsa che viene posta a disposizione di tutta l'organizzazione in qualche modo. E questo, ripeto, lo si può comprendere solo se si analizzano i rapporti e le relazioni, questa organizzazione a rete, diciamo così. E a quanto risulta, a Radio 24 proprio Giglio sarebbe stato almeno in un'occasione uno degli informatori di Zumbo. Zumbo che in passato aveva riferito al clan Apelle anche dettagli su indagini milanesi. Ma da chi e come li aveva ricevute? E poi quante e quali rapporti aveva avuto effettivamente col giudice arrestato? Tutte domande chiuse nei filoni ancora aperti d'indagine. Quel che invece è già definito è l'accusa che ha portato l'uomo che sussurrava ai boss già in carcere con i suoi segreti e i suoi contatti, che si leggono tra le righe delle parole del procuratore capo di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone e nei silenzi di Ilda Boccassini. Per quanto riguarda Zumbo, è già stato rinviato a giudizio ed è in corso il dibattimento di primo grado per entrambi gli episodi che gli vengono contestati, cioè la rivelazione delle notizie riguardanti varie indagini dei carabinieri e in particolare l'indagine del crimine, quella del 13 luglio 2010, e l'episodio a cui faceva riferimento lei, cioè il ritrovamento il giorno della visita del Presidente della Repubblica a Reggio Calabria, il 21 gennaio 2010, di una macchina con armi esplosive, eccetera. Noi abbiamo detto già nel primo provvedimento che questi fatti non sarebbero potuti avvenire se non ci fossero stati esponenti di apparati di polizia e o di sicurezza, testualmente, che avessero dato a Zumbo quelle notizie e gli avessero dato anche l'incarico di rapportarsi con i più importanti esponenti delle cosche 'Ndrangheta per fornire quelle notizie sulle indagini e avere in cambio evidentemente l'instaurazione di un rapporto sulla base di creare relazioni. Da un lato c'è il dibattimento in corso, dall'altro continuano le indagini che speriamo abbiano esito a breve. Fra l'altro a Reggio Calabria è stato emesso un nuovo ordine di cattura nei confronti di Zumbo, ma sono state emesse altrettante misure nei confronti della moglie, della sorella e del cognato, e questa indagine ha dimostrato i legami fra Zumbo e i suoi familiari è una delle più potenti cosche di 'Ndrangheta reggina, la cosca Tegano, risalente a oltre 10 anni fa, e contatti dello stesso Zumbo con esponenti di un'altra cosca fondamentale nell'equilibrio di 'Ndrangheta, che era la cosca di De Stefano, ancora in epoca più remota. Voglio dire che Zumbo nella sua parabola di questi 10-15 anni nasce con questo rapporto bilaterale, da un lato apparati dei servizi o delle forze di polizia e dall'altro cosche di 'Ndrangheta, da almeno 15 anni. Per quello che riguarda contatti con i magistrati, io non parlo. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, stiamo lavorando. Un filo potrebbe condurre dalla stanza di Vincenzo Giglio ai marmi del Piacentini di Milano, passando forse attraverso altre figure di questa zona grigia che, come il consigliere regionale calabrese arrestato Morelli, facevano da cerniera tra ambienti a volte più permeabili di quanto si creda, laddove non c'è solo il bianco dei buoni e il nero dei cattivi, laddove ancora Milano sta indagando, come anticipa il PM Alessandra Dolci. È un concetto che io sostengo fermamente, soprattutto avendo trattato il procedimento denominato crimine, che si è recentemente concluso, almeno con sentenza in primo grado, con la condanna di gran parte degli imputati. L'altro aspetto che caratterizza questa indagine è invece l'aver colpito quella che noi comunemente definiamo zona grigia, che accresce, legittima il potere della 'Ndrangheta. Questa indagine quindi ci ha consentito di disvelare i collegamenti tra soggetti appartenenti alla 'Ndrangheta e soggetti appartenenti alle istituzioni. E quindi scopo di questa indagine, così come di quelle che saranno le future indagini di queste DDA, sarà proprio quello di colpire questa zona grigia sia con provvedimenti restrittivi, qualora ne sussistano i presupposti. Qualora non ci siano elementi sufficienti per contestare reati come quello di concorso esterno in associazione mafiosa, credo che uno strumento importantissimo, che sicuramente sarà valorizzato da questa procura, sarà quello delle misure di prevenzione. Misure di prevenzione sia a carattere personale sia a carattere patrimoniale, che potranno colpire tutti coloro che comunque in qualunque modo daranno un supporto, un apporto, accresceranno il consolidarsi, il rafforzarsi di strutture 'ndranghetistiche in Lombardia. È in quest'area dove è più difficile discernere le responsabilità che le mafie di oggi, a cominciare dalla 'Ndrangheta, trovano i loro principali punti di forza. Nel medico, l'avvocato, il commercialista, il magistrato appunto, ma anche il politico, come sentiremo nella seconda parte di A ciascuno il suo, che vi condurrà anche alle origini stesse del concetto di zona grigia. A ciascuno il suo. La 'Ndrangheta trasversale appoggia chiunque possa servire ai loro interessi. Hanno infatti schieramenti diversi, politici sostenuti, incontrati o talvolta solo cercati dai rappresentanti dei clan calabresi. Se c'è Gianni Alemanno che da ministro pubblicamente durante una festa al Caffè de Paris di Roma elogiò gli imprenditori Lampada, ma perché è vittima del cinismo di Francesco Morelli, scrive il GIP Giuseppe Gennari, cioè vittima di un uomo a lui politicamente vicino, è lunga e per gli inquirenti interessanti soprattutto la lista di politici minori su cui uomini dei clan avrebbero fatto confluire i loro voti. Ci sono Giuseppe Alati o Luigi Fedele in Calabria, Tarcisio Zoppi a Reggio Emilia, Antonio Oliverio e Armando Vagliati al Comune e alla Regione della Lombardia. E questo perché è molto più utile nella logica mafiosa avere un contatto con un amministratore che può poi aiutare con appalti, facilitazioni e decisioni urbanistiche, piuttosto che, scrive sempre il GIP, un onorevole senza poteri effettivi di decisione. È la periferia la vera prateria di conquista dei clan, dunque, e questo sia nel milanese che nel reggino, come dicono rispettivamente il procuratore aggiunto Ilda Boccassini e il capo dell'ufficio calabrese Giuseppe Pignatone. La periferia è molto più importante. Le faccio un esempio: l'Expo non è che si gioca a Milano, le grandi ditte, tutto l'indotto, semmai ci sarà, gli insediamenti che andranno fatti proprio nei territori in cui c'è il sindaco di Bucinasco, di Corsico, di Segrate, eccetera. Non a Milano, a Milano si può costruire un bel palazzo, un bel grattacielo, però tutto quello che è Expo, quindi le infrastrutture, sono fuori, in periferia. In Calabria, o meglio nella provincia di Reggio Calabria, in questi 3 anni sono stati arrestati e alcuni condannati in primo grado candidati alle elezioni, eletti al Consiglio regionale, tutti e due presidenti di commissione del Consiglio regionale calabrese, numerosi sindaci, proprio perché hanno portato anche allo scioglimento di diversi consigli comunali, sindaci in carica o sindaci appena dimissionari, perché la 'ndrangheta parte col suo controllo proprio dalla base, perché proprio la base costituisce spesso il punto di riferimento più prezioso per investimenti, controllo delle attività commerciali, delle attività economiche e così via. Seduti uno accanto all'altro, i magistrati lombardi e calabresi sono l'immagine plastica di una battaglia che ora è congiunta ed è sviluppata su tutti i fili di questa ragnatela 'ndranghetista che, anche se si dipana in tutto il mondo, resta unica e con una stessa origine e anche per questo così insidiosa, come dimostrano ad esempio le strade del riciclaggio scoperte in questa indagine e a cui fa riferimento il procuratore aggiunto reggino Michele Prestipino. Due delle famiglie che operano nella zona territoriale di Palmi, in particolare la Cosca dei Gallico e quella dei Bruzzise. Nel corso del giugno e del dicembre 2010 noi abbiamo chiesto, ottenuto l'arresto di oltre 60 componenti di queste due famiglie e quelle indagini misero in evidenza qual era l'ordinarietà, la quotidianità delle attività di quelle cosche, le estorsioni, il controllo delle attività economiche sul territorio ed in particolare l'infiltrazione sui cantieri della Tre. Queste indagini misero allora in evidenza il sistema delle relazioni esterne che queste cosche, in particolare i Gallico, coltivavano al di fuori del territorio di Palmi e misero in evidenza il personaggio, diciamo, centrale, il fulcro di queste relazioni, l'avvocato Minasi, colpito da provvedimento restrittivo, e abbiamo scoperto un canale estremamente sofisticato che da Palmi porta addirittura negli Stati Uniti, passando per la Svizzera, un canale di riciclaggio che per le stesse ammissioni, le stesse parole dei protagonisti di questa vicenda è stato, come dire, collaudato già diverse altre volte e in altre occasioni. Il professionista che ho citato si appoggiava per attuare questo programma di investimenti e di riciclaggio a un notaio avvocato che ha con studio a Lugano, Daniele Borrelli, il titolare, il gestore, per quello che è emerso dai nostri atti, di uno schermo societario che ha sede negli Stati Uniti d'America. Beh, il perché di queste scelte è evidente, lo spiegano molto bene e dicono noi non possiamo utilizzare società svizzere, non possiamo utilizzare banche svizzere, non possiamo utilizzare canali svizzeri, perché questi qua, cioè gli svizzeri, da un po' di tempo a questa parte dicono tutto ai magistrati italiani. Lo dicono i mafiosi, certo. Viene il sospetto ovviamente che questo sia uno dei tanti canali di riciclaggio, uno di quei tanti famosi canali di cui molto si parla e che spesso non vengono individuati nella loro specificità, nella loro concretezza, attraverso cui evidentemente vengono veicolati, transitano non solo i soldi e le ricchezze illecite mafiose, ma probabilmente anche soldi e ricchezze di altra illecita provenienza. Giudici, politici, medici, avvocati, per tutta la puntata abbiamo attraversato spazi in cui il bianco e il nero, dei buoni e dei cattivi, sconfinano molto spesso l'uno dentro l'altro. È questa la zona grigia, una definizione che ha origine in realtà in tutt'altro contesto e in uno dei libri più importanti dello scorso secolo, I sommersi e i salvati di Primo Levi. Allora oggi la tradizionale chiusura letteraria di A ciascuno il suo parte da Levi col critico letterario Marco Belpoliti e arriva anche a Sciascia, sulle cui orme si colloca il titolo della nostra rubrica. È quella zona appunto intermedia tra i due poli opposti del bianco e del nero, cioè delle vittime e dei carnefici. Levi spiega che è molto ampia questa zona grigia e che non ci sono soltanto appunto le vittime e i carnefici, ma ci sono tutti coloro che in varia forma, in vario modo, in differente grado, hanno collaborato con i carnefici. Non esiste più questa differenziazione tra appunto il bene e il male in modo secco e netto. Quando poi invece nella letteratura che si occupa di argomenti di mafia si introduce, si pensa a questo concetto, il primo scrittore che viene in mente è Sciascia. Siamo negli anni 60 con il libro appunto Il giorno della civetta, dove ci sono vari aspetti variegati, ma anche A ciascuno il suo, che di poco seguente, dove ci sono esempi di zona grigia, responsabilità, gradi differenti di responsabilità. Se poi noi vogliamo fare un discorso di tipo sociale, politico, culturale, etico, sui comportamenti delle singole persone, ricordiamoci sempre che Levi dice una cosa straordinaria riprendendo una frase di Manzoni appunto nei Sommersi Salvati, cioè la vera responsabilità è quella dei corruttori. Detto altrimenti, nel Lager sono state le SS, cioè gli aguzzini, che hanno corrotto per far sopravvivere gli ebrei. Questi si sono piegati, hanno collaborato, come è accaduto, insomma Hannah Arendt l'aveva visto molto bene, avevano collaborato con gli stessi aguzzini perché ciascuno pensava di salvarsi, ma non è la responsabilità di chi ha collaborato, la responsabilità maggiore sta in chi ha corrotto e ha creato quella situazione piegando la debolezza degli esseri umani fino al punto di accettare anche questo male. A ciascuno il suo finisce qui, come sempre vi ricordo che potete riascoltarlo e scaricarlo dal sito radio24.it nella sezione podcast oppure direttamente su iTunes. Ci ritrovate anche su Facebook, sulla pagina di Storiacce, nome della nostra vecchia trasmissione, e sull'audioblog Storiacce. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.